Falululu. Fahrradilu, Fahrradilu, Fahrradilu, Fahrradilu, Fahrradilu, Fahrradilu, Fahrradilu, Fahrradilu, Fahrradilu, Fahrradilu, Fahrradilu, Fahrradilu, Fahrradilu, Fahrradilu, Fahrradilu. È il lupo. Il lupo del martedì. Asilo. Non fatevi prendere dallo sconforto, lui capa vi trascina. No, ma sono triste perché latitano i videi. Perché non vi scatenate, dai, ascoltatori di Chiedo Asilo? Scatenatevi! I videi didascalici con le canzoni del bambino Alberto ridotte a serie di immagini banali e scontate. Non è difficile, dai. Non so, prendete come esempio Tony Landolfini. Landolina. Landolfini. E Andrea Seneca. Seneca. Che hanno postato i videi di. Uno, se per voi non c'è problema, Landolfini, sì. E Lampascione Seneca. Sì, Seneca. Provate con l'internazionale futurista. Secondo me si presta, è vero, bene. È un inno di, bravo, disillusione politica. Ottima idea. Pieno, bravo, di spunti. Bravo, ottima idea. Fallo tu, per esempio. Io? No, io? Perché io? Non lo so. Parli, parli. Vabbè. Bla bla. Parlo. Chiacchieri, chiacchieri. Ma chiacchieri, chiacchieri chi? Compagni, dove siamo finiti? Qui per esempio non siamo finiti. Il mondo, no, il mondo. Noi cambiò. Cambiò. È il cambio, cambio. Change. Il tempo, l'idea svanì. No, e qui c'è un falce martello che sparisce. Piane torci. Ma abbia un cane che pura che sbava. Un cuore che esplode. Inizia nell'89. Vabbè, qui è facile. Sì, sì, 89. Occhetto, le spalle ci girò. Spalle, il sedere di Occhetto. Cambiamo il nome, noi resto. PC diventa PDS, e poi DS, poi PD. Gira le palle, e qui uno si può sbizzarrire. Gira più che si può. Anche qua. Ci tocca votare. Futuro è libero. Senti, Bocchino o Fini? Bocchino prima che parlo. È vero, per esempio. Ecco, qui per esempio possono essere creativi, no? Di didascalici, ma ci tocca votare, futuro e libertà. Cioè, metti Mike Buongiorno sul cervino con la grappa. È il momento di lanciare un nuovo concorso, bravo, fai un po' di musica. Oltre a quello dei video didascalici, che però capisco un po' difficile, uno deve anche avere un po' di consuetudine con i mezzi, con i video, i software, eccetera, eccetera. Ma lo sa invece, far mia mamma. Ho capito, insomma. Invece adesso noi lanciamo un concorso un po' più analogico, che è quello di scrivi una scenetta con Gildo, Ioris, il caposcout, il bidello senza palato e naturalmente il bambino Alberto. Tutti insieme? No. Uno con l'altro, è quello che volete, noi la metteremo in scena. Sì. Allora, per questa prima volta voi dovete scrivere un testo che non sia troppo lungo, quando lo leggete poi a voce alta, che duri un minuto e mezzo, con le parole chiave mamma, arcata sopraccigliare, senso di colpa. Il tema di questa scenetta sarà una brutta figura, quindi postate i vostri script sulla bacheca Facebook di Chiedo Asilo. Se invece siete tipi riservati, mandate un messaggio privato sempre a Chiedo Asilo. Sì, scrivendo magari... Senti capo, ma questa cosa dell'oggetto fromage. No, attenzione, dillo bene. Ma cos'è? Fromage o homage? Cos'è? Rumage. Un pochettino di qua. No, perché un c'è qualcosa anche nel, mi pare, per i champagne, che si chiama il remoage, no? Come fanno il. Girano. Tu dois di bien. C'est le champagne. Champagne, quando girano di tre quarti la bottiglia. Champagne. Champagne. Champagne. E dipende se è il vin o se è invece la zona. Vin. La zona. Ah, oui, la zona si cambia un pochino, si dice una è champagne, l'altra è fromage. State ascoltando un programma offerto da Wunderwaffer. L'asilo Italia, nonostante la recessione e l'aria da funerale che aleggia dappertutto, continua però a produrre adulti che si comportano come deficienti o comunque come minori. L'ultimo esempio è uno dei figli di Umberto Bossi, Roberto Libertà. Ma come? Ma è figlio di Bossi, porta un altro cognome. No, Libertà, Libertà è il suo secondo nome, Roberto Libertà Bossi. Beh, meno male che non l'ha chiamato Roberto Padania. Comunque, il buon Roberto Libertà, a 21 anni, ha appena subito una condanna dal giudice di pace di Gavirate in merito a una faccenda di lancio di gavettoni alla Candeggina. No, ma come? Ecco, pensa a te. Ma, vabbè, comunque avrà dovuto tenere conto il giudice che, insomma, si tratta di un difficile ambiente familiare in cui il giovane è cresciuto. No, non so, tanto la multa è di 3.800 euro che gli verranno scalati dalla paghetta. Ma quindi, a chi li ha tirati sti gavettoni? A un militante di Rifondazione Comunista che attaccava manifesti durante la campagna elettorale 2 anni fa all'Aveno Mombello. Ah? L'Aveno Mombello, l'Aven Mumbel in dialetto varesotto, è un comune italiano di 9.053 abitanti della provincia di Varese in Lombardia. Il comune, situato sulle rive del Lago Maggiore, nacque nel 1928 dall'unione dei soppressi comuni di L'Aveno, Mombello Lago Maggiore e Cerro Lago Maggiore, che dal 1757 al 1809 si chiamò Cerro con Ceresolo. Ma insomma, alla fine, voglio dire, questa faccenda di Roberto Libertà è un litigio tra ragazzi di provincia. Sì, Mombello, non è il caso di farne un caso. Sto parlando a caso. Magari no, però mi permetto di proporre Roberto Libertà Bossi per il premio figura da pirla del mese. Ma sì, dici? Ma diamogli sta soddisfazione, allora, bravo, una volta nella vita. Bravo, bravo, bravo Roberto Libertà, che poi la Lega hanno altro di cui preoccuparsi adesso, quindi... Ho sentito vagamente che hanno dei problemi sul sito, no? Come sul sito? Cosa dici? Il sito. Che hanno un bel, avevano un bel sito che funzionava. Ma no, non ho capito. Ma no, hai sentito parlare di Francesco Belsito. È un bel sito. Belsito è il tesoriere che sembra che imboscasse i soldi per darli a Bossi. Sembra, Sai la storia della Tanzania. A Bossi in Tanzania. Non escluderei che presto o tardi si ritiri lì, Bossi. Come Craxi in Tunisia. Esatto, sì. Solo che Bossi in Tanzania non è che si trova tanto bene. Guarda, secondo me. Se i soldi sono lì, secondo me, ma strano, trova benissimo. Ma in Tanzania è pieno di neger. Ma ecco, i soldi, se vuoi, non vedi nemmeno un neger in Tanzania. Ti chiudi nel tuo, oppure, come si chiama, compound. Vedi solo quelli coi soldi. Ah, i famosi neger coi soldi, tipo Michael Jackson. Ma Michael Jackson è morto. Il bambino Scilipoti è entrato e uscito tante di quelle volte da gruppi parlamentari diversi che neanche i fratelli Gallagher quando litigavano negli Oasis. E secondo me c'è un parallelismo che esiste tra i gruppi rock e i gruppi parlamentari. Soprattutto, secondo me, tra Scilipoti e gli Oasis. Cioè, si formano e si sciolgono gruppi parlamentari, più o meno come si formano e si sciolgono gruppi rock, dai. Vabbè, allora, Scilipoti è come uno di quei musicisti che si mettono in testa di fare la carriera solista. Sì. Sai, improvvisamente... Tipo Peter Gabriel, bravo, che lasciò i Genesis. Lo so, anche Riccardo Fogli che lasciò i Pooh. Ma dai, vedi che adesso Tito addirittura si è ripreso. Capa, che paragoni fai? Non è un paragone, stiamo facendo un elenco. Peter Gabriel, Riccardo Fogli, Sting, bravo, sì, sono tutti che poi lì. Scusa, Charles Aznavour. No, ma cosa c'entra? Mica faceva parte di in ogni caso, allora, il comunicato stampa standard del gruppo parlamentare che si scioglie si rifà a quello dei REM. È successo così, ascolta, ai nostri elettori e ai nostri fan, come amici di una vita e co-cospiratori, abbiamo deciso di smettere di essere un gruppo parlamentare. Queste, guarda, che sono le parole. Ce ne andiamo con un grande senso di gratitudine, di compiutezza e di stupore per tutto ciò che abbiamo realizzato. A chiunque sia mai stato toccato dalla nostra attività politica va il nostro più profondo ringraziamento per averci appoggiato. Appoggiato, me lo sento anche detto così, no? Chi le ha scritte queste? Michael Stipe. Dei REM. Shiny happy people, na na na. Charles Aznavour, no, Michael Stipe, che però si è innamorato della musica francese. Non hai letto le interviste ultime? No, ecco, faceva proprio così. Diceva che lui vorrebbe cantare Shiny happy people, na na na na na na. È triste un pochino, però è shiny triste people. Da parte martedì, na, no? Na na na na na. Na, na, na, na, na. Na. E ora, bambini, e tutti a casa. Questo qui è Charles Aznavour che è entrato, non si sa bene come, in una di quelle, sai, quelle luci attira insetti azzurre che poi li fulminano? Mi immagino Aznavour che svolazza. Ma come svolazza? Sì, una sera estiva, vicino a un baracchino di salsicce, e improvvisamente... E poi si sente un odore come quello di pollo bruciato. e purtroppo anche Shalaznavour è morto.